questo. YouTube di Marta Cagnola e Daniele Bellasio. Oh, la terza ora del sabato del villaggio che diventa quella di RadioTube. Stai fremendo per la partita? Sei pronto? No, ma ti vedo tranquillo. Sì, sono abbastanza tranquillo. Ormai sono... perché c'è questa convinzione, come se comunque il fenomeno ormai sia avviato, però poi Germania-Italia è tosta. Perché Italia, siamo Germania. Tutti qua che friggiamo, volevo capire un po' qual era il tuo stato d'animo. Ma il mio stato d'animo è Forza Inda. Allora, prima di parlare di Inda e di Nazionale. Parliamo di Internazionale. Non vuoi neanche darci i nostri... hai messo all'inizio per farmi contento. Ma non puoi neanche dare i nostri account di Twitter, così. Cancelletto RadioTube è il nostro hashtag. Cancelletto ISDV se preferite le prime due ore di questa trasmissione di Marta. E i nostri account sono @MartaCagnola @DiBellasio. E allora, ecco dai, allora andiamo subito con il nostro nuovo inno. Forza Inda! Perché noi siamo internazionali, si chiama Internazionale la squadra, quindi sì, abbiamo una nuova proprietà cinese, Forza Inda! Che poi non si capisce bene se dice, perché è stato scritto che dice Forza Inda. Forza Inda! Ma quello è cinese, ragazzi. Ha ragione. È simpaticissimo nel suo modo di fare. Ma io sono felicissimo. Buffo, sono veramente. A parte che poi è una cosa seria di apertura al mercato internazionale. Cioè, questa cosa che. Poi le squadre succede in tutta Europa. Da noi fa ridere. Guarda, Forza Inda mi piace. Io ho già fatto la tessera. Ama la interista dentro. L'hai pagata in euro o l'hai pagata? No? In renminbi. Sì. No, ma che c'entra? Guarda che è serio. È serio questo argomento. Ti aspetto al varco. No, ma fischio, guarda, sarà sicuramente l'anno dell'Inter. No, ma non dire queste cose. Torniamo sulla nazionale. Nazionale. Forza Inda, ti vedo tranquillo, ti vedo sereno. Anche perché poi tutti noi italiani abbiamo adottato una seconda squadra, ma diciamolo. Certo, noi siamo a posto. Abbiamo adottato una seconda squadra perché abbiamo... Da una parte già c'è il fenomeno nazionale, già vinto il contismo, quella roba lì. Comunque vada. Quindi noi siamo contenti. Mm-hmm. E poi abbiamo questa nazionale che ci sta simpaticissima, anche perché poi devi sapere che questo paese qua specifico ama tantissimo noi. Certo. Io ho un amico che sta lì, sì, un amico, e che è andato a vedere ovviamente la partita, tifosissimi. Avranno capito tutti che stiamo parlando dell'Islanda. E stiamo anche imparando a tifare come a gioire come loro. Che assomiglia un po' a Forza Inda, però è un altro tipo di H. Ma cosa vuol dire poi H? L'H è quella del rugby che si fa in Nuova Zelanda, no? Che è diventata anche per... Ma proprio la parola, cosa vuol dire? Non si sa. È allora, come la Iku. Mostriamo, ma cosa c'è? La Iku giapponese. Quelle parole che tutti dicono, ma nessuno sa effettivamente cosa vuole dire. Ma no? Fermiamo un attimo, Daniele Bellasio, e mostriamo alla radio. Vai. Tifo islandese. Vai, fallo anche tu, Marta, vai. No, perché stavo cercando cosa significa. Fallo a ritmo, segui. È un po' lì, no? Poi va più veloce, eh? Bellissimo, i tifosi lì, l'Islanda. Mi piacciono perché mitica. Sono calmi gli islandesi, sono anche un po' freddi, sono misurati. Ma cosa c'entra? Non è che siccome stanno al freddo non possono avere emozioni, ma questa che logica sono è? Pacati. Allora noi che stiamo al fondo, mandolino, le solite cose. Sono pacati, sono seri, sono calmi. Questa è l'europeo, adesso ne parliamo con una persona molto più seria di noi. Questo è l'europeo della grinta, della passione che supera il talento. La passione si sente. Tra l'altro, la passione è stato anche il filo conduttore del nostro sabato del villaggio. E chi più appassionato del nostro telecronista islandese? È il grande ritorno, è sempre lui. Che mi senti che non te no! La pacatezza. la freddezza del nord Europa. Cioè, il problema è che a noi fa sorridere perché ce l'aspettiamo dai latinoamericani e non ma guarda che sono luoghi comuni. Forse cioè questa è una nazione, a parte che ha programmato tutta questa crescita del calcio, poi perché no, sono felici, sono... Cioè, sono creativi, hanno scrittori, sono cantanti, sono dei fighi, anche delle, sì, non si può dire, si dei può bei dire. Bagaglie, delle belle bagaglie, delle belle ragazze. Ma noi abbiamo anche la un fidanzata. Esperta, la fidanzata, no, abbiamo detto che non parliamo anche, di Bobo Vieri. Parliamo anche della fidanzata no. di Vieri. No. Abbiamo un esperto in collegamento, vogliamo chiamare uno dei nostri esperti di calcio preferiti in causa per parlare di europeo, di Islanda. Abbiamo il direttore, siccome nel secondo blocco lo intervistiamo come vice direttore del giornale, nel primo lo intervistiamo come direttore di 11 al telefono Giuseppe De Bellis. Ciao. Ciao direttore. Ciao a tutti, ciao. Allora ti chiedo subito una cosa sull'Islanda, visto che noi siamo diventati così un po' islandesi, poi parliamo anche d'Italia, ma per esorcizzare questo momento dell'attesa, l'Islanda ha appassionato anche te? Decisamente sì, per la ragione che diceva Daniele poco fa, vi ascoltavo, la ragione è che ha costruito questo successo, perché chiaramente si parla già di un successo da quando si è qualificata, a dir la verità. Appunto l'ha pianificato, l'ha cercato, l'ha voluto, sono anni che ci sta lavorando l'intero paese, perché il calcio è diventato sostanzialmente uno sport nazionale, ma uno sport di Stato, nel senso che c'è una gigantesca, per quanto gigantesca possa essere una cosa che avviene in un paese di 320.000 abitanti, ma una gigantesca operazione di costruzione di uno sport che prima era un passatempo, poco più, in una disciplina che tutti praticano da quando hanno 3 anni, perché si comincia dall'asilo. Beh, e quindi fantastico. L'hanno costruito campi apposta, chiaramente coperti, sono il paese che ha la media spettatori più alta d'Europa nelle partite di campionato, anche se la media è di 1.000 spettatori, però in rapporto alla popolazione è la media più alta d'Europa. Cioè a 320.000 abitanti come Bari, e non lo dico esatto, a caso perché c'è Giuseppe esatto, De Bellis. Il collegamento è molto calzante. Cioè come Bari. Senti, ma Giuseppe, però sei d'accordo che certo loro hanno molto programmato punti campi, però sei d'accordo che paradossalmente mentre l'Europa non scalda più tanto i cuori, questo è un po' l'europeo della passione, della grinta, Conte che va sopra la traversa, il Galles, l'Islanda. Ieri con la fidanzata. Dai, con la passione. Ho detto la passione nel senso di grinta, non la passione nel senso quello nel che senso pensi quell'altro. Tu. Cioè, per esempio, i grandi talenti, un nome a caso, Cristiano Ronaldo, così un po' in ombra, così, e invece l'europeo delle passioni. Magari sbaglio. Non sbagli. Sicuramente è così. È stato attribuito, come dire, è stata attribuita la mancanza di talento a questo europeo. Io non credo che ci sia mancanza di talento, c'è un talento diverso, perché l'organizzazione e la grinta sono comunque dei talenti che nel calcio sono fondamentali, e quindi il talento di Conte, che fa, come dire, il diavolo a quattro e che macina chilometri anche lui in panchina, è quello di aver creato un gruppo, così come è avvenuto appunto per la nazionale islandese o per la nazionale della Polonia, che è uscita giusto, probabilmente immeritatamente, e probabilmente questo dipende dal fatto che il calcio è diventato uno sport talmente complesso e talmente scientifico che il talento individuale, o quello che noi riteniamo essere il talento individuale, quindi la classe, il tocco, la giocata ad effetto, diventano meno determinanti. E quindi un calciatore come Cristiano Ronaldo, che è spesso molto appariscente, in questo europeo sta andando molto male, ma la sua nazionale, pur non avendo mai vinto, è arrivata in semifinale. Sì, però che noia questa semifinale, sì, con tutti sì, i pareggi, uffi. Sì. Ragazzi, solo un attimo di pausa. Traffico, poi siamo ancora insieme perché dobbiamo parlare un po' di Italia e poi ho anche dei dati di da Google. Di Europa. Dei dati da Google molto molto divertenti, tra pochissimo. Verona-Torino, trasferta d'affari. Io, un collega e il sistema Digital Radio. Ti va di ascoltare la radio? Certo, ma te la faccio provare in digital. Ne ho sentito parlare. Il suono perfetto che non ti lascia mai nemmeno in autostrada. E in più hai tanti contenuti speciali. Basta un autoradio digitale. DAB Plus. Chiedila al tuo concessionario. Se ami la radio, muoviti a provarla in digital, in auto e a casa. Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Anche Radio 24 è in Digital Radio. YouTube. Oggi abbiamo fatto un'impresa, certo. Adesso sabato ci aspetta l'impresa titanica. È l'impresa titanica, Conte, sabato che, e oggi, che come dicevi tu, tra poco. Che come dicevi tu, si è fatto un salto. Ma lì pazzesco. Poi c'è anche Buffon che tutte le partite sale sopra. Grande grosso, ma che lo faccia l'allenatore. Allora, vi ho promesso dei dati. Vai. Allora, Giuseppe De Bellis. Giuseppe De Bellis in collegamento con noi. L'Italia è in vantaggio sulla Germania. Non sto toccando ferro dappertutto. Nelle preferenze di ricerca su Google, perché tra la nazionale italiana e quella tedesca, l'Italia vince per numero di ricerche in Europa, ma anche in Canada, gran parte dell'Africa, Australia, Russia e Brasile cercano soprattutto notizie sull'Italia. Perché siamo sparsi noi italiani, poi fa simpatia. Tra quelle i quarti di finale si piazza seconda solo all'Islanda. Certo. Ovviamente. Allora, il giocatore più cercato perché la gente su Google. Islanda cerca dov'è. Dov'è? Esatto. Il giocatore, bello, questo mi piace. Allora, giocatori più cercati su Google. Primo, Eder. Secondo, Pellè. Terzo, Buffon. Quarto, Zaza. Quinto, Sirigu. Tra le curiosità più cercate su Eder, il nome del giocatore e la squadra in cui gioca. Come? Ma gli italiani si chiedono anche perché il colore della divisa nazionale è azzurro. Dovrebbero forse saperlo. Gli italiani lo chiedono. Allora, quali sono le curiosità che gli italiani cercano su Conte? Dove è nato? Quanti anni ha? Chi è sua moglie? Quando giocava? Quinto, chi è Antonio Conte? La prendono larga. I tedeschi? I tedeschi cosa che cercano googolano. Su Google sugli azzurri? Uno, quante volte l'Italia ha vinto gli europei? Paura, eh? Quante volte l'Italia è stata campione del mondo? Quando l'Italia gioca contro la Germania? Pragmatici tedeschi. L'orario. Quante stelle ha l'Italia sulla sua maglia? E quando è stata l'ultima volta in cui l'Italia ha vinto i mondiali? Questa potrebbero ricordarsi. Vabbè, certo. Eravamo anche lì. Anche perché, sì, esatto. Perché eravamo lì. Ecco, queste sono le ricerche. Però, dicevamo appunto, abbiamo parlato tanto di Islanda. Effettivamente, la più cercata è l'Italia su Google. Dopo l'Islanda. Sì, però appunto Giuseppe, tutto merito di Conte, sembra di capire. Anzi, non è in questa fase va di moda dire che non bisogna personalizzare, però noi abbiamo un po' personalizzato la nazionale. Devo dire che visto che siamo partiti con lo scetticismo di tutti, era inevitabile che in caso di ritorno dell'entusiasmo tutto sarebbe stato attribuito a lui, e io credo che anche in caso contrario sarebbe andato così. Chiaramente se l'Italia fosse andata male sarebbe stato tirato fuori di sicuro il fatto che lui aveva già firmato con, certo, con Chelsea, e quindi era disattento, distratto, quindi la mancanza anche di grinta eventuale dipendeva da questo. In realtà probabilmente per lo stesso retropensiero si è ribaltato tutto e quindi Conte è diventato il personaggio. Le immagini che stiamo vedendo in questi giorni di lui che esulta, di lui che si arrabbia, di lui che manda i baci alla moglie, che la moglie che gli risponde ti amo, la bimba, lo stanno facendo diventare oggettivamente il personaggio per eccellenza. Sì. Insieme a Bobo Vieri. Però io voglio sapere se voi lo sapete perché la maglia dell'Italia è azzurra. Per i Savoia. Siamo preparati, dai, non l'abbiamo detta sbagliata. Per i Però Savoia. Mi chiedevo il bordino giallo, perché è stato inserito questo bordino giallo. Studieremo. Ma passiamo, parliamo un po' di Europa, dai, perché comunque... Ah, di Europa non nel senso di europei. Esatto, perché ci sono gli europei, mentre tutti parlano di Europa. L'europeo c'è la passione, in Europa mica poi tanto, anche se però piccoli barlumi, a parte diciamo un po' tanto di retorica sui giornali, mi stava scappando un po' anche di conformismo, nel senso che ci scopriamo tutti europei quando succede qualcosa che non va. Però, molto tipico. Sai che però ci sono per esempio dei posti dove manifestano con una qualche emozione la voglia di restare in Europa. Tipo? A Londra, tipo... conosci come città? Conosco come città e so anche che insomma qui si è votata per la Brexit, ma Londra non era così contenta. Sì, no, ci sono dei ragazzi, per esempio ce l'abbiamo un video di Canti. Lo mostriamo alla radio. Christian Goldoni ce lo manda, eccolo. In questo cantano video EU, sono lì davanti a Westminster, manifestazioni Jude, cos'è? No, sì, ma credo dicano EU. Perché appunto ci sono, cioè, stati questi casi, nel senso di EU, Unione Europea, sì, quindi sì, sì, EU sono manifestazioni abbastanza spontanee. Però appunto, Giuseppe, che cosa, come vedi tu la situazione in Europa? Da una parte un europeismo un po' retorico che arriva, però dall'altra parte anche così uno shock effettivamente reale, per non parlare quello sui mercati. Devo dire che lo shock è stato enorme per la Brexit, ma non solo per la Brexit, devo dire, perché poi anche quello che è accaduto ieri in Austria è stato il secondo shock. Le elezioni austriache sono state tutte giocate su l'antieuropeismo e l'europeismo, e sapere che vengono invalidate, si rivoterà il ballottaggio perché il candidato filo europeo ha vinto, ma forse non ha vinto perché qualcuno ha fatto delle irregolarità, secondo me alimenta questa dicotomia e secondo me radicalizzerà ancora di più le posizioni nelle prossime settimane. Per la Brexit io ho l'impressione che la retorica di cui parlavi tu, che è sicuramente ha raggiunto anche delle vette mai raggiunte prima in queste settimane, sia una reazione alla consapevolezza che questa cosa è accaduta davvero, mentre fino al giorno in cui c'è stato il risultato in pochi davvero pensavano che il voto potesse andare in quella direzione. Ci si è svegliati un po', come dire, rintronati da anni di sciocchezze, probabilmente da anni di retorica al contrario, che ha danneggiato l'immagine dell'Europa e ha danneggiato poi anche il risultato complessivo, perché io credo che alla fine che il risultato sia un danno complessivo per l'Europa. Va rispettato il diritto di un paese di scegliere il proprio futuro, anche se non si è d'accordo con questo futuro. D'accordissimo con te. Devo dire che in entrambi i casi, nel caso del referendum inglese con polemiche, proposte di rifarlo, tenerlo di nuovo, sia nel caso di quello successo in Austria, il pensiero di tutti, sui social e non solo, è andato a: fosse successo in Italia, avremmo detto, e gli altri avrebbero detto, i soliti italiani. Sì, beh, certo. È, insomma, umano questo. No, bisogna capire, non so che cosa ne pensa Giuseppe, se queste sveglie, questi shock, poi alla fine, dal punto di vista complessivo dell'Europa, siano benefici oppure no. All'inizio ho pensato immediatamente alla possibilità di un risveglio immediato della politica europea. Dopo due giorni mi sono già disilluso, perché credo che poi la reazione successiva è stata la solita reazione di ogni paese che ragiona solo teoricamente a livello comunitario e poi ciascuno in realtà pensa esclusivamente al proprio interesse, perché la Germania dice ok, non li facciamo uscire subito soltanto perché gli interessi bilaterali tedesco-britannici sono molto importanti e vanno giustamente tutelati prima che la separazione avvenga. Però al contrario, il Presidente della Commissione Europea, che è l'ex leader di un paese che ha meno rapporti con la Gran Bretagna, subito, è durissimo. Allora vorrei capire qual è la vera natura di questa Europa, quello che poi i cittadini percepiscono, che questa sia soltanto l'unione di interessi soggettivi che diventano interessi collettivi soltanto in rarissime circostanze. È il ragionamento complementare di quello che dicevi tu, Marta, i soliti italiani, certo. I soliti inglesi, e quindi si ritorna. Eh sì, però magari, ho letto qualche giorno fa un tweet molto carino, lo stavo cercando ma non l'ho trovato al volo, di una lettera su un quotidiano di un lettore che si lamentava e diceva: io ho votato per la Brexit, cioè per uscire dall'Europa, perché volevo dare una lezione all'Europa, ma mi sono fidato dei polls, dei sondaggi che dicevano che tanto avrebbe vinto il Remain. E io la trovo geniale, fidandomi del fatto che comunque avrebbe vinto il Remain, io ho votato contro per dare una lezione all'Europa e invece sono rimasto fregato, quindi è colpa dei sondaggisti. Sì. Allora, abbiamo ancora qualcosa da chiedere magari sull'Italia al nostro Giuseppe De Bellis? Ma io il pronostico non glielo vorrei, cioè perché uno gli deve chiedere come va fra un'ora? No, voglio solo chiederti come la vedrai, Giuseppe. Ecco, questa è una bella domanda. E twitterai? In diretta dal vivo, perché io sono qui a Bordeaux e quindi che figa. La vedrò dal vivo, twitterò.

Daniele, che puntata? Che puntatona, mi sa che non posso vedere la partita perché mi devo preparare per il vlog. Il vlog, puoi devo fare anche un vlog mentre guardi la partita. Va bene, forza allora abbiamo azzurri. Scoperto cosa vuole fare da grande Daniele Bellasio, fare il vlogger, adesso che sa cos'è. Adesso parto. Seguitemi. Vediamo primo se arrivi. Primo obiettivo il milione, l'abbiamo detto. Perfetto, allora, buona partita a tutti per questa sera. Forza azzurri e ciao. Noi ci ritroviamo sabato prossimo e ringraziamo Cristian Goldoni in redazione, ringraziamo Carmelo Lauricella in regia. Noi ci ritroviamo sabato prossimo. Sì.